La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100. Lo sai chi ci abita qua? Ah, un sudano ci abita qua. 100 passi ci sono da casa nostra, 100 passi. Vivi nella stessa strada, prendi il caffè nello stesso bar. Alla fine ti sembrano come te. Salutiamo Zutano! E mi assegui Peppino! E mi assegui Giovanni! E invece sono loro i padroni di Cinisi! E mio padre, Luigi Impastato, gli lecca il culo come tutti gli altri! Non è antico! È solo un mafioso, uno dei tanti! È nostro padre! Mio padre! La mia famiglia! Il mio paese! Io voglio fottermene! Io voglio scrivere che la mafia è una montagna di merda! Io voglio urlare che mio padre è un leccaculo! Noi ci dobbiamo ribellare. Prima che sia troppo tardi! Prima di abituarci alle loro facce! Prima di non accorgerci più niente! È Peppino Impastato il personaggio che più di tutti ha cambiato la vita a Luigi Locascio, che lo ha interpretato nel film I 100 passi di Marco Tullio Giordana. Un ruolo arrivato grazie anche alla segnalazione dello zio, Luigi Maria Burruano. Un'interpretazione che permetterà a Locascio di far conoscere il suo grande talento anche a livello internazionale. Luigi è siciliano, nasce a Palermo nel 1967, finisce il liceo classico e si iscrive a medicina. Vorrebbe fare psichiatria, racconta, ma il teatro lo rapisce, quasi per caso, trasformandolo in uno dei più grandi attori italiani. Io in realtà ho studiato medicina, cioè ho i primi 2 anni. Ho fatto il liceo classico, poi mi ero iscritta a medicina e non avevo mai pensato a fare l'attore, però ecco, là rientra anche la mia parte ecologista, passa per l'amore per l'atletica leggera e questi sport, diciamo, a impatto ambientale zero, nel senso, adesso ad esempio io quasi mai uso la macchina e mi piace molto anche a Roma, anche se ci sono grandi distanze, camminare a piedi, mio padre era un marciatore, e quindi, diciamo, appunto, sono sempre stato, come dire, un amante dell'atletica leggera e con degli amici per andare a inseguire i nostri miti, appunto, e andare a vedere che sono i mondiali o le olimpiadi in giro per l'Europa, e facevamo degli spettacoli di teatro di strada. E quindi andavamo nelle varie città, ad Helsinki, a Parigi, a Barcellona, facevamo questi spettacolini e quei soldi che avevamo, che guadagnavamo, continuavamo i nostri viaggi. Quindi, diciamo, tutto nasce così, come una cosa anche un po' goliardica, legata al viaggio, legata allo sport. Poi, appunto, facendo questi spettacolini, mi è capitato per caso di essere visto da un regista che mi ha proposto di fare un provino con Federico Tiezzi e ho fatto la prima tournée teatrale. Era Aspettando Godot di Beckett, io facevo una parte piccolissima, però facendo quella tournée, quindi avevo già quasi 22 anni, facendo quella tournée mi sono innamorato proprio del mestiere dell'attore facendolo. E quindi il piacere di andare alle prove, proprio il lavoro che fanno gli attori a tavolino, col copione, parola per parola, sviscerare il senso delle varie battute. Poi lavoravo con attori straordinari come Virginio Gazzolo, Franco Mescolini, attori di teatro bravissimi. E quindi, insomma, là c'è stato Gianluigi Pizzetti, insomma è stato molto molto Gustavo Fuggeri, insomma era un gruppo molto molto bello, quindi stando in quinta, guardandoli, andando nei teatri, in camerino, in questo bellissimo luogo in cui ci si prepara ad entrare in scena. Ecco, facendo questa pratica è venuta quella che, volendo, si potrebbe chiamare anche una forma di scoperta di una vocazione. Allora, a quel punto, siccome io non avevo mai fatto nulla oltre quello, ho deciso che fosse, diciamo, anche un po' il caso a mostrarmi cosa dovevo fare, e ho fatto gli esami in Accademia d'Arte Drammatica. Ho detto: se entro in Accademia farò l'attore, se non entro in Accademia continuerò medicina. Quindi così è successo, siccome poi mi hanno preso, ho fatto l'Accademia a Roma, ho lasciato Palermo e lì è cominciato, diciamo, proprio il fatto di diventare attore, ecco. Senta, e qual è stato, diciamo, se c'è un esordio, se se lo ricorda, che in qualche modo lei ha sentito come l'inizio? Ma appunto è la scuola, quei tre anni. I tre anni della scuola sono stati veramente molto formativi. Io ad esempio non ero, anche se avevo fatto il classico, ero, diciamo, teoricamente bravo perché avevo preso 60, mi piaceva studiare, però ad esempio non avevo un grande amore per la letteratura, non leggevo, mi ricordo che nel trasloco da Palermo a Roma, cioè, il bagaglio di minor peso erano i libri, cioè ne avevo due praticamente, e invece proprio stando lì, studiando in accademia con questi grandi maestri che ho avuto, tra cui ricordo in particolare Orazio Costa e i compagni, anche che con cui continua una grande amicizia anche adesso, sono formato anche come persona, non soltanto come attore. Quindi le due cose coincidono, e quindi è un evento lungo, cioè che dura la durata di questo apprendistato che è stata l'Accademia d'Arte Drammatica, e quindi con la grandissima fatica, perché, diciamo, è un'esperienza molto molto difficile, ma anche molto divertente. Cioè, siamo veramente anni di grande gioco. La prima volta. Vorrei un'Europa più compromessa, più sociale e con più senso dell'umorismo. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21:30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Luigi Locascia è un ragazzo palermitano, frequenta il liceo classico, corre, ama l'atletica, ha amici con cui progetta le vacanze. Ed è in una di queste vacanze che Luigi Locascia, già iscritto a medicina, scopre la bellezza di recitare. Si ritrova su un palco in tournée con una piccola particina che gli cambierà la vita. Finita la tournée, infatti, tornerà a casa a Palermo, farà le valigie e partirà per Roma. Studierà e si diplomerà all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico. Anni intensi, fatti di sogni, letture, discussioni fino a notte fonda. Luigi è cresciuto, ha trovato la sua strada. Poco dopo aver interpretato Peppino Impastato ne I 100 passi, la vita di Locascia cambierà per sempre. In realtà vengo scelto. Si vede che dopo aver interpretato Peppino Impastato nei 100 passi si è creato, diciamo, forse appunto per la bellezza di quella storia e per l'esemplarità dell'esperienza di quell'uomo, come, diciamo, un collegamento tra me, diciamo, come attore, e la possibilità di interpretare personaggi fortemente morali. E di questo ne ho anche un po' la prova, perché appunto dopo, vabbè, La meglio gioventù di Marco Tullio Giordano, dove appunto anche Nicola Carati era un uomo, diciamo, a suo modo, anche nella normalità della propria vita, con certi tratti straordinari quanto, diciamo, a comprensione, a capacità di ascolto degli altri, la sua pratica antipsichiatrica ad esempio, ma anche nel rapporto proprio con i familiari, diciamo, è sempre stato una figura di riferimento. Però appunto la prova è che quando Martone Mario Martone mi ha proposto di fare, di interpretare un personaggio di Domenico in Noi Credevamo, quando mi ha incontrato mi ha detto: quando penso a questo film penso alla meglio gioventù dell'Ottocento. Quindi in questo senso dico, cioè, quei personaggi hanno quel tipo di stoffa, quel tipo di struttura morale proprio comune, e quindi un regista magari sì, pensa a me, ecco, io non posso che immediatamente aderire a queste cose, però non è che sono io che scelgo di fare, cioè sono chiamato e cerco di farmi trovare pronto, ecco. Sì, però diciamo che insomma lei ci ha messo del suo, nel senso che sì. Sì, diciamo, come attore in parte, come uomo nel senso, ma sono dei personaggi incommensurabili, diciamo, rispetto alla mia natura più normale, cioè l'attore deve fare sempre uno sforzo per ingigantirsi quando ci sono personaggi così straordinari, ecco, perché effettivamente appunto anche Domenico di Noi Credevamo, anche il giudice di romanzo Una Strage, sono tutti personaggi che vivono la propria esperienza innanzitutto all'insegna dell'autenticità, ecco, in questo senso sono straordinari. I 100 passi, La meglio gioventù, Luce dei miei occhi, Il più bel giorno della mia vita, Buongiorno notte e tutti i film in cui recita Locascio sono capolavori, opere che restano nella memoria di tutti e che in qualche modo cambiano la vita a molti. Locascio riceverà premi nazionali e internazionali, sarà un attore di grande successo. Eppure, di tutta questa gloria, ciò che ancora conserva Locascio è la memoria di Peppino Impastato e il bene che può derivare dall'aver dato voce a un personaggio così intenso. Ma continua a farmi piacere, ad esempio, diciamo, il fatto di aver fatto i 100 passi e appunto di aver interpretato Peppino Impastato, perché, diciamo, quel film ha... mi capita che delle persone mi fermino e mi dicono: quel film, quindi la conoscenza poi in particolare dell'esperienza di Peppino Impastato, della sua vita, mi hanno cambiato la vita, nel senso che sono ragazzi che magari non sapevano, non avevano ancora deciso cosa fare, hanno pensato di fare chi il giornalista, chi tentare la carriera in magistratura, diciamo, l'attività politica, ecco. Quindi in effetti un film come quello ha inciso fortemente nella vita di tante persone, quindi, diciamo, è la cosa che custodisco con più emozione. Il fatto di continuare ad andare nelle scuole o nelle università a parlare di Peppino Impastato, mi capita di incontrare persone che dicono che dopo aver visto il film hanno preso un treno e sono andate a Cinisi a trovare la madre quando era ancora viva, fino a qualche anno fa, a vedere la casa dove viveva Peppino Impastato. Quindi, ecco, in questo senso il film, diciamo, è uno di quei film che sicuramente hanno inciso nella sensibilità di molti spettatori. Quando pensiamo a Luigi Locascio, pensiamo a un'Italia forte, sicura del proprio talento, un'Italia diversa da quanto appare al professore della meglio gioventù. Lei avrebbe meritato un 28, un 29. Io ho messo 30 perché ho applicato quello che io chiamo il quoziente di simpatia. Poca cosa. Ma quanto basta per farla arrivare al 30? Qualcuno prova da eccepire su questo mio quoziente di simpatia. Ma io credo che la simpatia, nel senso greco del termine, sia un pasein, cioè condividere il pathos, la sofferenza altrui, è molto importante per un medico. Ad altri applico invece il quoziente di antipatia, cioè tolgo 2, anche 3 punti. L'antipatia è la cosa peggiore per un medico. Lei è meritevole comunque, complimenti, ma non si monti la testa. Ha ancora 2 esami da fare con me e sono sempre in tempo a farla a pezzi. Quei 2 chi sono? Amici suoi?